fatica del mio tempo. Per poterlo scansare, il colpo è stato troppo grande. Vedere lei, che io non desideravo vedere. Vederla e sentirmi legato a lei. Irredito in lei. È stato tutto. E tale resta. Vivere separato da lei. E pensare, sarebbe la mia morte. E ovunque si stia, dopo la morte, sarebbe anche la mia morte. Questo è amore. Ebbene sì, il templare ama. Il cristiano ama la fanciulla ebrea. Ma che importa, in terra santa, ho già abbandonato molti dei miei pregiudizi, come templare. Sono morto. La testa di cui Saladino mi ha fatto colpo potrebbe essere la mia di un tempo. No, è nuova ed è migliore, più adatta al cielo paterno, lo sento, perché solo adesso ho cominciato a pensare come te, aver pensato qui, mio padre. Il suo esempio mi garantisce la sua approvazione. E da chi altro dovrei attendere un'approvazione? Da nada. Eccolo Decio, raggiante di gioia. C'è altro modo di venire via da Saladino. Ehi! Nathan! Siete voi? Kurt! Mi siete trattenuto molto tempo dal sultano. Davvero l'uomo è all'altezza della sua fama. La sua fama non è che la sua ombra. Vuole parlarvi. Vuole che andiate all'istante da lui. Accompagnatemi un momento a casa. Ho da preparare ancora qualcosa per il sultano. E poi andiamo. No, in casa vostra io non ritornerò. Ah! Quindi ci siete già stato. Ne avete già parlato. Allora, ditemi, vi piace Rebecca? Non ci sono parole. Tuttavia, di vederla no, mai e poi mai. O dovreste promettermi qui, all'istante che sempre, che mi sarà concesso vederla sempre. Come volete che io intenda tutto questo? Padre mio! Caro amico. E figlio no. Neppure se la riconoscenza del cuore di vostra figlia avesse già spianato la vita d'amore. Neppure se entrambi non attendessimo altro che un vostro cenno per unirci insieme in un unico essere. Voi mi sorprendete, mio giovane cavaliere. Io mi sorprendo. Con le vostre stesse parole, in bocca mia voi non le conoscete, sono io che mi sorprendo. Sì. Prima vorrei sapere quale degli Stanfield è stato vostro padre. Ma come? In un momento come questo non mi viene nient'altro in mente che una curiosità. Beh, vedete, un tempo ho conosciuto anch'io uno Stanfield che si chiamava Coulthard. E se mio padre si fosse chiamato allo stesso modo? Davvero? Sì. Mi chiamo anch'io come mio padre, Coulthard sta per Coulthard. Se è così, allora il mio Conrad non era vostro padre, perché il mio Conrad era quello che siete voi, un templare, e non si è sposato mai. Ma anche così poteva ben essere mio padre. Scherzate. E voi siete troppo serio. Di che si tratterebbe voi? Sarei un bastardo, un illegittimo, la razza non è da disprezzare. Ma liberatevi voi dal peso della mia nobiltà, io libero voi dalla vostra. A non che io abbia il minimo dubbio sul vostro albero genealogico, Dio ci guardi. Io lo so che potreste giustificarlo voglia dopo voglia, su, fino ad Abramo. E da lì poi lo conosco io stesso. Diventare aspro, lo merito? Io forse respinto? È che non voglio prendermi in parola venite. No, no, in casa vostra, vostra. Faccio più in fretta possibile. La mente dell'uomo ha una capacità di spazio infinita, ma basta un nulla e via all'improvviso la pazienza. L'anima è mezzo questo, la materia è la data. Si fa spazio e torna la luce e l'ordine. Era amore, quello che conoscevo come amore, oppure amore, quello che provo adesso. Avviene, avviene, sono uscito nascosto da lui, ma mi presento, ci può vedere, perciò mi avvicinavo a lui. Che succede? Che c'è? Sto riguardo a un segreto, scappò da lui, anzi, un segreto doppio. Uno lo so solo io, l'altro lo sapete solo voi che nel video siete gli scambiati. Va bene. Insomma, prima posso sapere quale per voi il mio segreto. Ma questo sarà chiaro dopo il posto, su cominciate. Oh, vedete un po'? No, signor cavaliere, prima voi io mi seguo. Perché di sicuro il mio segreto non vi serve a niente se prima non conosco il vostro, perciò fate presto. Sembra uno strappo a forza di domande, voi non avrete fatto nessuna confidenza. Ma che significa che un uomo vi serviate di poter avere un tale segreto? Ma quante donne! E spesso neanche noi sappiamo che avete! Dite, che significa che voi vi intendiate come la siete svegliate? Vi sapete abbandonati in quel modo? Reca! Tanto su di voi un effetto così debole? Poi invece così forte? Ammettete che l'amate fino alla pazzia! Ma la pazzia? Ma cosa mi chiamo perfettamente? Che un templare possa essere innamorato di una fanciulla? Ma senso dubbio! Sembra avere poco senso, eppure qualche volta c'è un fatto più senso di quel che pensiamo. Ma voi mi rendete più curioso di quanto io non sia di solito. Ah, questa è la terra del miracolo. Va bene, dai. Accettate per confessato quello che vi aspettate. Ah. Io vado. Sicuro? Sicuro? Allora giuratemi, cavaliere, di salvarla qui per ora la super sempre. Ma come posso giurare qualcosa che non è il mio potere? Che è il vostro potere? Con una sola parola, io avete il vostro potere. In modo tale che neanche il padre abbia nulla incontrato. Ma che padre, padre? Il padre sarà obbligato. Obbligato? E alla fine lo vorrà, volentieri. Obbligato? E volentieri. Ma dai, se ti ho detto che con lui ho già provato a toccare questa cosa. E lui non gli è venuto dietro? Sì, mi è venuto dietro con la sua natura. Che mente che ho fatto. Ma come? Che dite? Mi avete mostrato che sono l'ombra del vostro amore per lei. E lui non è saltato su dalla gioia. Ho sempre ritirato gentilmente. Sì, sì, all'incirca. Allora non voglio riprenderci più. Nemmeno un minuto. Ma mio uomo che mi veste così buono. Sì, anch'io mi vedo molto, ma non può aspettare. Oddio, è testimone. Il cuore mi sanguina a costringere. Ah, se vi prego. Se ciò che avete in animo debba dirsi turpe, tacete. Io dimenticherò che avete qualcosa. Ma dove spinge invece di trattenermi bene? Sappiatelo. Reca. Non è ebrea, è... Cristiano! Sì, ma anche a voi. Come? Che davvero? La mia denuncia merita questo scherno? Perché cristiani non ne siete felici voi cristiani? Soprattutto perché è cristiana la vostra invenzione! Ma che è cristiana? Nata da genitori cristiani! È un potentato! È nata! Non è suo padre! Voi sapete quello che state dicendo? La verità! Troppo spesso mi ha fatto versare l'acqua di sangue. No, allora non è qua. E l'avrebbe allevata come sua figlia. Si sarebbe allevata una fanciulla cristiana come ebrea. No, io così. Lei non sa in quale fede è nata. Non ha mai saputo da lui che è nata cristiana e non ebrea. Mai, mai, mai. Ha educato in queste due non soltanto la bimba. Tiene nell'errore anche la fanciulla. Purtroppo. Ma come? Nata. il buono, il saggio Adamo, si sarebbe permesso di corrompere a tal punto la voce della natura, di tagliare gli impulsi di un cuore che lasciate se stessi avrebbero preso tutte altre strade. Si piace, mi avete confidato una cosa grave, una cosa che può avere conseguenze, una cosa che mi confonde, per cui ora non so come agire. Perciò, datemi tempo, in questo momento non posso davvero parlarvi. Se lo vedete, ditemi che ci incontreremo dal sultano. Ma quando poi lo portate in Europa, non mi lascerete qui? La cosa si aggiusterà. Ora andate. Ah, un modo, come posso servire la signoria vostra? con la cosa che dite che manca alla mia giovinezza. Un consiglio. A ben volentieri! So che il consiglio bisogna anche accettare, ma non alla cieca. Ah no, certo, certo, nessuno deve omettere di usare la ragione che Dio ci ha dato. Dove la ragione è al suo posto, ma è sempre al suo posto. E no, per esempio, Dio, quando Dio con uno dei suoi angeli, è come dire con un ministro della sua parola, si veglia a prenderci noto un mezzo per favorirla, per confermare il bene di tutta la cristianità e la salute della Chiesa. E chi s'azzarderebbe? Fai parlare secondo ragione di che credi di colui che ha creato la ragione a vagliare con le povere leggi di un nome presuntuoso, la legge eterna della celeste maestà. E dunque, su che cosa voi, Signore, chiedete ora il nostro consiglio? Andiamo. Padre, venerabile, che un ebreo abbia un figlio unico, anzi una figlia, e che l'abbia allevata ad ogni virtù che la ama più della sua stessa anima, e che lei lo ricambi con l'amore più devoto. Ora, qualcuno viene a sapere che la fanciulla non è figlia dell'ebreo, ma che l'ebreo l'ha raccolta, comprata al male quello che volete, la bambina. Ora si sa che la fanciulla è figlia di cristiani ed è stata battezzata. Ma che ebreo l'ha levata da ebrea e la fa restare in ebrea. Ora ditemi, padre venerabile, che cosa si dovrebbe fare? Un clone. Ma perché mi chiedeste a vostra signoria se non fa caso è un fatto o un'ipotesi? Voglio dire, se la signoria vostra sta solo inventando, forse tutto questo è accaduto e continua ad accadere. Ho pensato che per avere un'opinione della vostra evidenza una possibilità vale l'altra. Una vale l'altra. Vedete quanto può errare l'orgogliosa ragione umana per questioni spirituali. Se è il caso presentato, è solamente un gioco della fantasia. Beh, non vale la pena starci a pensare seriamente. Ma se in caso accade veramente, se addirittura è accaduto nella nostra amata città di Gerusalemme, e allora al più presto si dovrebbe assegnare la ribellione prima che il regime papale imperiale lo scriva per un tale verità. È una dilatazione. Ah, è così. La legge prescrive per l'ebreo che sfiga il cristiano e l'apostasia il rogo. Ah, è così. E con ragione per maggiore per un ebreo che sfama con la violenza un povero bimbo cristiano al vincolo del suo battesimo. Non è sempre violenza, ogni cosa fatta a un bimbo. Ripeto, eccetto le cure che chiesa deve ma. Perdonatemi, che dire del caso in cui il bambino sarebbe morto in miseria se l'ebreo ne avesse avuto pietà? Non conta l'ebreo, ma no. E come può l'ebreo anticipare il Signore di Dio? A Dio chi vuol salvare lo salva, anche senza l'ebreo. E non manda il cielo a rispetto di lui. Ma non conta l'ebreo, ma no. Ciò mi rattrista, specialmente perché dicono che lui abbia evitato la fanciulla. Non nella fede ebraica, no, no, no, anzi no, in nessuna fede. E lei su Dio non ha ricevuto né maggiori né minori insegnamenti di quelli che basta la ragione. Ecco, ecco. Solo questo basterebbe a farlo bruciare tre volte. Ma come crescere un bimbo senza nessuna fede? Ma come? Non insegnare a un bambino il massimo dovere, quello di credere. Questo supera ogni limite. È un mio cavaliere. E resta in confessione. No, mio signore. Cioè, Dio vorrà. Cosa? Ma non mi date nemmeno una spiegazione. Non mi dite il nome del bambaccio. Dell'ebreo! Non me lo portate qui, bambaccio! Vado subito dal sultano Saladino, in forza del trattato di resa su cui ha giurato, è obbligato a proteggerci in tutti i nostri privilegi. in tutte le dottrine della nostra santissima religione. Sarà anche facile farvi capire quanto sia pericoloso per lo Stato stesso non credere più a nulla. Tutti i vincoli civili sono sciolti, sono spezzati. Se l'uomo si permette di non credere più a nulla, basta, basta con questo delitto, basta! È toccato che io non possa godermi l'eccellente sermone con tutto il corpo. Sono stato appena chiamato dal sultano. Ah sì? Se piace la vostra eminenza, io preparerò. Il soldato lo so. Lo so che la signoria vostra ha il favore di salvare. Non credo che di essere ricordato con benevolenza. A spingermi è unicamente lo zero verso di me. Se faccio il lo faccio per lui. Il signor Cavaliere, lo prenda anche. Ah, che va bene. Quello che avevo detto prima, nel paio, è unicamente un'ipotesi, diciamo, un'ipotesi. Queste cose. Abbiamo visto sua morte? Come sa? La voce di Hassan dorme ancora in qualche parte della mia mano. Sono io. Sultano, il tuo prigioniero. A chi dono la vita? Non dono anche la libertà. Ciò che per me è giusto fare, per me è giusto solo apparire, non rispondere. In qualunque caso la mia vita è stato servizio. Non usarla contro di me. Un paio di mani le cedo volentieri al mio nemico, questo sì. Ma dagli un cuore come il tuo. Sia così, di questa dolce illusione, resta pur sempre vero che è il mio amore, rifiorisce un assalto. E tu sei d'accordo con me? Ciò che viene di te era già un desiderio della mia anima. Ti metto la... Resteresti con me, accanto a me, cristiano o musulmano, non importa, con la veste lunga o col mantello bianco, come vuoi, non importa. Non ho mai preteso che tutti gli altri crescessero con la stessa cortice. Altrimenti non saresti quello che sei. L'eroe che vorrebbe curare il giardino di Dio. Beh, se tu di me non hai opinione peggiore di questa, saremmo già d'accordo a metà di tutto. La tua parola. Sai guardia. Io purtroppo sono una cosa dalle molte facce, che spesso non sembrano andare d'accordo. Mi dispiace, perché ti risolvo la differenza di nome. Allora dimmi, perché mi fidare di Nathan tu? Controllatemi, io non ho nulla. Io sono in collera solo con me stessa. E la ragione? La ragione è che ho sognato che un ebreo possa dimenticare di essere un ebreo. Non io sogno a occhi aperti. Dimmi questo tuo sogno. Tu sai che è la figlia di Nathan. Soltanto. Dovrei vergognarmi. Per aver provato un'emozione per una fanciulla ebrea, no, non sarà questo. All'emozione suscitata dalle amabili chiacchiere del padre, il mio cuore impetuoso non ha opposto alcuna resistenza. Sciocco che sono, mi sono gettato due volte nel fuoco. Sono stato io a chiedere le spose e a me toccare il suo rifiuto. Il rifiuto? Il santo padre non mi ha respinto in due parole, no. Deve prima informarsi, pensarci, ma sì, non è quello che ho fatto anch'io. Non mi sono forse informato quando lei gridava in mezzo al fuoco. Ma piano, piano, piano. Abbi compassione per un povero vecchio. Quanto durerà la sua posizione? Non pretenderà che tu prima ti faccia ebreo. Che può dire? Può dire. Ti conosce meglio questo nato. I pregiudizi in cui siamo stati allevati, anche quando li riconosciamo, non per questo perdono il loro potere su di noi. È un'osservazione matura, ma... Il peggiore dei pregiudizi? E credere il proprio meno grave degli altri. Può essere, ma no. Affidare solo ad esso l'ottusa umanità fino a che non si abitua alla luce della verità. Una debolezza del genere non è propria di una. Lo pensavo anch'io. E se invece questo portento di umanità non fosse altro che un ebreo così miserabile da andare in cerca di bambini cristiani per allevarli come ebrei? In tal caso? Non si parla di lui. La fanciulla con cui mi adesca non è sua figlia. È figlia di cristiani, ma sperduta. Nonostante questo non ha voluto dare. Vuole o non vuole, è smascherato. L'avvocato della tolleranza è smascherato dietro al lupo ebreo, filosofica pelliccia di pecora. Saprò benissimo lanciare il mio calma. Calma, cristiano. Che calma, cristiano! Se all'ebreo e al musulmano è concesso essere quello che sono soltanto al cristiano, non è permesso di fare. Calma, cristiano! Tutto il peso dell'improvvero con cui Saladino pronuncia il sillabe cristiano. Se solo sapessi di Assad, come avrebbe aggiunto Assad al mio posto? Non molto meglio. Con lo stesso fuoco. Tutto quello che mi hai detto su Nathan è vero. Neanche io non conosco più Nathan. Per ora lui è mio amico. E nessuno dei miei amici deve litigare con l'altro. C'è paura. Non farne subito una preda degli esaltati della tua gente. Non raccontare in giro cose di qua, i tuoi preti. Soprattutto, non essere cristiano a danno di un ebreo o un musulmano. Stava per essere cattivo. Non lo è, grazie al dire a scombinare del patriarca di cui mi ha fatto orrore essere scoperto. Come? Sei andato al patriarca per venire da me? Nell'ansia dell'incertezza, nell'impeto della passione. Perdonami, sultano. In me temo tu non vorrai più riconoscere nulla del tuo assalto. Conosco proprio lo stesso timore. Credo di vedere da quali errori sboccia la virtù. Se mi dà perseguito, te e tua qualifica. Se con la ragazza hai intenzioni serie, sei tranquillo e tua. Ma che male. Quando un'altra si accorgerà, quando va una bimba cristiana senza sangue, sarà un po'. Mi rallegro, signor Nathan, di vedervi sempre in buona salute. conoscete? Sì, chi non mi conosce? Avete impresso il vostro nome nelle mani di tanta gente. Anche nelle mie, quanti anni ho solo. Qua, venite fratello, rinfresco quel nome. No, io lo ringrazio. Lo ruberei ai più poveri. Se solo voi poteste darmi un po' di ascolto e potessi rinfrescarvi un po' il mio nome. Posso vantarmi infatti di aver messo qualcosa nella vostra mano che non è da disprezzare. Ma prima di tutto, ascoltate come io stesso mi sono ricordato soltanto oggi di quel mio pegno affidato a voi. Un pegno affidato a me? È anche in mia età, sul monte della Quarantana, non lontano da Gerico. Vennero predoni arabi a abbatterono la mia chiesetta e mi incarcerarono già con loro. Per fortuna poi sono scappato e mi sono rifugiato qui dal patriarca per chiedergli di darmi un altro posticino dove potessi servire il mio Dio in solitudine. Sto cercando di capire, mio buon fratello, certo per il pegno affidato a me. E subito, signor Nathan. Allora il patriarca mi promise un elmo sul tavolo, appena se ne liberasse uno, e mi impose di restare intanto a convento come frate largo. Allora come qui, signor Marco, 100 volte al giorno sento il desiderio di essere sul tavolo, perché il patriarca mi offre per ogni genere di faccenda che mi dà un grande prezzo, per esempio. Concludete, vi prego. Sì, ci arrivo. Oggi qualcuno mi ha detto in un orecchio che quel tono di prete non è perché anche si è levato da cristiana come sua figlia. Che cosa? Ascoltate tutto. Dopo che il patriarca mi ha incaricato di rintracciare questo ebreo, si è risvegliata in me la coscienza e mi è venuta in mente che io stesso, tempo fa, avrei dato occasione a questo grande, imperdonabile peccato. 18 anni non sono. Uno scudiero non vi ha portato una bimba di poche settimane. Signora, guardatemi negli occhi. Lo scudiero ero io. Siete voi? Il signore da quale l'ho portata a voi era, se non mi sbaglio, un signor Fonfine. Volo Fonfine. È così. Perché la madre era morta da poco. E il padre dovette rifugiarsi improvvisamente a Gaza, mi pare, che dove la vicina non poteva seguirlo, allora la donò a lui. Proprio così. Lui morì in combattimento presso Ascalona poco tempo dopo. Era un buon padrone. Sì, certo. Quanta gratitudine mi perdo. Quanta. Più di una volta mi ha sottratto la spada. Ma che bello! Ma tanto più volentieri che vi sarete preso cura di sua figlia. Potete immaginare. Oh no, non è che lei è morta. Se nessuno ne sa niente, allora tutto si accomoda. Si accomoda? Abbiate fiducia, signor Nathan. Se la bimba doveva essere allevata bene da voi, è naturale che voi la levaste come una figlia vera. Se lasciavate ad altri di educarlo come cristiano, non avreste amato la vicina del vostro amico. E a quell'età, i bambini hanno bisogno di amore. Ma sapete l'amore di una belva, più che di cristianesimo. Per il cristianesimo, c'è sempre tempo. Se la fanciulla è cresciuta onesta davanti ai vostri occhi, allora è rimasta quella che era dagli occhi di Dio. Dopo tutto il cristianesimo si fonda sul liberalismo. I cristiani troppo dimenticano che anche il nostro Signore non è ebreo. Voi, fratello padre, dovreste farvi la difensore. Se contro di me dovessero levarsi di odio e l'ipocrisia, voi non altri dovete conoscere la mia sì. La lontana non mi ha mai potuto raccontarla. La racconto solo a chi non è loro, perché essi sono contrari di chi è capace l'uomo che si attiva a Dio. I vostri occhi voi con la Bibbia mi incontraste a Gerusalemme, ma non sapete che pochi giorni prima a Gaza i cristiani avevano ucciso tutti gli ebrei con donne e bambini. Non sapete che in mezzo a loro si trovavano due uomini e sette figli di grande speranza e li bruciavano tutti. Nella casa del mio fratello avevo creduto a mettere il sangue giusto in Dio. Quando arrivaste voi, io per tre giorni e tre notti al cospetto di Dio, nella polvere e nella cenere, avevo pianto. Pianto? In quel mio momento di ira avevo perfino accusato Dio. E maledetto me, il mondo e alla cristianità, avevo giurato ogni mio pianto. Ma sì, di credo, ma anche questo. Eppure Dio c'è, e tutto questo è anche un decreto di Dio. Su, muovi, dimostra a Gerico ciò che da te tu hai compreso, purché tu lo voglia. Anzi, mi sono alzato, e a Dio ho gridato: Dio, se tu vuoi che io voglia, voglio. Quel momento siete sceso da cavallo, mi avete dato la mano, la presi, la portai in un incontro, la baciai, la gettai in ginocchio e se pensai, Dio, e disse, mi hai prometto. Mi mandai, siete un cristiano. In nome di Dio, siete un cristiano, non c'è mai stato cristiano migliore. Buon per noi, perché quello che fa di me un cristiano ai vostri occhi fa di voi un ebreo, ai miei. Ma smettiamo di mettere amici. Qui bisogna agire, e se bene ci hanno uccide il pensiero di dover prendere in lei i miei sette figli un'altra volta. Se la provvidenza la esige di nuovo dalle mie mani, però io questo pensavo di consigliarmi. Non posso trattarvela però, mio avvocato. Ma non c'è. In un naso di lei i diritti maggiori dei miei deve almeno averli più antichi. Ma sicuro? Quelli che trasmettono natura e sangue. È quello che penso. Perciò ditemi subito l'uomo che a lei è parente. A lui non mi interessa però. Lei è stata creata e cresciuta per essere l'onore di ogni casa. Non mi fidi. Spero che di questo vostro signore, della sua fede, voi ne sappiate più di me. Come un è molto difficile, sono stato con lui pochissimo tempo. Non sapete almeno di quale stirpe era la madre? Non era una scalfe? È possibile. Un padre. E suo fratello non si chiamava Conrad von Stauffen e non era un templare? Se non mi inganno. Mi sono ricordato che ho ancora un libricino di quel signore buon'anima. Glielo trassi dal petto quando l'abbiamo seppellito a Cascalona. Dentro ci sono preghiere. Noi lo chiamiamo preghiano e pensavo potesse essere ancora utile a un cristiano, ma non a me perché io non so leggere. Non importa, andiamo al suo. Sì, sì, nel libretto dall'inizio alla fine, come lo sono fatto dire, c'è scritto di proprio pugno del mio signore, i parenti di lui e di lei. Andate. Correte, portatemi qui il libretto, sono pronto a comprarlo a peso d'oro! Per volentieri! Ma quello che c'è scritto, che il mio signore Bonfin che c'è scritto, è in arabo! Sì, sì, certo, è in arabo! Qui, subito! Dio mio, avrei preferito tenere con me la fanciulla e acquistare con lei un genere come lui, ma è difficile. Vada come vede, ma chi mai sarà stato? A ricordare a Patria tutta la storia, io mi devo dimenticare di chiederlo se fosse stata proprio Ma pensate, Nathan. Allora? Regami uno spavento tremendo. Però di me... È patriarca? No, della sorella del sultano. La principessa Sitta. Non del patriarca? No, Sitta, ma non mi ascoltate? La principessa Sitta ha mandato a prendere lei. E tu mi hai detto Dunque tu di recente non hai sentito nulla da lui? Non sei andata a dirgli niente? Io? A lui? Vieni. E io ci sarei bella, sono l'unica figlia, brutta. Mi avrei tanto dovuto. Adesso è una principessa per il mio destino. Fare fuori di loco se io esito ancora per il secondo passo, se non rimarrà per lei stessa. Che cosa può accadere con la gente? Può prendere la ragazza solo da casa vostra, Certo, può trascinarmi in un convento solo se è vostra di nessun altro. Quindi, datela a me. Ci guarderà bene da prendersi mia moglie. Datela a me, subito. Sia di che vostra mano sia, sia cristiana, ebrea, o non sia niente, è uguale. Io non vi farò più questa domanda. Io non avrei mentito a nessuno che avesse avuto il diritto di saperlo, che Reca è cristiana e mia figlia adottiva. Perché a lei non ho ancora svelato? Di questo devo scagionarmi solo con lei. No. Non dovete neanche con me. Non lasciate che debba guardarmi mai con altri occhi. Risparmiatele la scoperta. Datela a me, subito! Io solo posso salvarla per la seconda volta, io posso e voglio! Potevate, ora non più, è troppo tardi. Ringraziando il patriarca, ringraziamo perché? Perché ora sappiamo chi sono i suoi parenti e sappiamo a quale mani possiamo affidarla con sicurezza. Voi dovete averla da quelle mani, non dalle mie. Povera Rebecca, quante cose ti succedono? E dove stanno questi parenti? Prima di tutto si è trovato un fratello. E dovete chiederlo a lui. Un fratello? E chi è questo fratello? È un soldato, un religioso. Credo che non sia né l'uno né l'altro. O è tutti e due. Ma è un uomo onesto con cui Reca non si troverà male. Ma è un cristiano! E non offendetevi nada, ma io a volte non so proprio cosa pensate. Non dovrà fingere di essere cristiano in mezzo ai cristiani. E il buon grano che voi avete seminato non lo soffocherà l'odio. Cioè voi siete sicuro che Reca, il suo fratello, non si troverà male? Credo, spero. Comunque, se dovesse mancare qualcosa, non è sempre voi, succede di me. Avevate creato un angelo, che ora altre corromperanno. Non è sicuro. L'angelo si sentirà sempre degno del nostro amore. In qualunque caso, Reca deve sapere da me. Prima che date il vestito della viaggia. Dove andate? Dove correte? Da lei, per vedere se il suo animo è ferito abbastanza da prendere la sola decisione che sia degna di me. Fermo! Non la trovate! Sta da Sica, dalla sorella del sultano. Da poco? E che? E se volete trovare là anche il fratello, venite con me. Ma è fratello di chi? Di Sica, di Reca? Forse di tutte e due, perciò venite, vi prego, venite! Questo padre, deve venire fuori! con Sita non contano né geniti né disperazioni. Su di lei ho tutta la regione greca, chi mi presenta la causa. Vince. Allora, mia sorella non può mai permettere che mi costringano ad accettare un altro padre. Un altro padre, costringerti. Chi mai può volere? Chi? La mia buona, dalla cattiva può volere. E vuole poterlo. Dio la perdoni. E la ricompensi, mi ha fatto del bene molto. Ho fatto anche del male. Il male a te? Non deve esserci un gran bene in lei. No, c'è, c'è tanto. Chi è? È una cristiana che mi ha levato quando ero bambina e con che affetto non puoi credere. Perché io ho soltanto proprio la mancanza di una madre. Io la ricompenso. Ma quante volte ho avuto paura di te. La povera donna è una di quelle esaltate che si illudono di conoscere l'unica, la vera strada per arrivare a Dio. Ora insomma, si sentono obbligati a ricordarsi la loro strada a chiunque mi descriva. Non posso non farlo. Tuttavia, la cosa è andata troppo. Gianca, quella strada per venire qui. Ci siamo avvicinati a un tempio cristiano, in rovina. All'improvviso Dacia si ferma, sembrava in lotta con se stessa. Ora alzava gli occhi umidi al cielo e ora voltava a me. Vieni, disse. Io lo seguo. E i miei occhi osservano come riverenzo. Le rovine morte. E io mi vedo insieme a lei, accanto agli scalini di un altare, un pezzo. L'ho provato quando Dacia mi ha creduto di piedi versando carte d'acqua, come dico. Implorava di avere pietà di me stessa o almeno di perdonarla, sarà costretta a spiegarmi quali diritti avrebbe su di me la sua chiesa. Ma sospettava. Io sarei nata da una famiglia cristiana. Sarei battezzata, ma non sono figlia di nato. Perché mio padre? Alzati! Alzati! Arriva mio fratello, oggi. C'è mia sorella. E fuori di sé. Che cosa vuoi? Riprenditi. C'è il sultano. No, no, non mi alzo, non mi alzo. Ma dove devi portare il sultano a trovare? Cioè, c'è il cazzo. Ma tu, ma perché non mi prometti? Prometto, prometto. Di lasciare a me il padre di nato. Non so chi ti prende. Ma chi può pretendere di essere il mio padre? Ne voglio saperlo. Ma è il sangue che fa un padre. Lo capisco. Chi è stato tanto crudele da mettere in testa a te un'idea del genere? Dato, che dice di averlo saputo dalla mia notizia, che morendo si sentì obbligato a continuare. Morendo. Vaneggiando forse. Se anche fosse vero. Benissimo. Il sangue non ha mai fatto il padre. Può farlo appena tra gli animali, non ti angustiare. Sai una cosa? Se a voler te i padri saranno tuoi, lasciali tutti e due e prendi il terzo. Prendi me come padre. Sì, padre. Voglio essere un buon padre davvero. Nel tuo momento, che bisogno hai di questi padri? Prima o poi muoiono. Guardiamoci intorno un tempo per vedere se troviamo qualcuno che possa vivere in gara con noi. Conosci nessuno? La stai facendo possibile. La mia intenzione è proprio quella. Il rossore fa belle e brutte. Non dovrebbe fare un po' più belle e belle. Ho chiesto che vengano qui tuo padre. No. È un'altra persona. Padre di Rossio, aperta, anche lui, anche l'altra. Non è piaciuto. Padre Rossio. Piccola e povera. partire. Come vuoi e come vuoi. Sono loro, fratello. Sono fratello. cosa? Siamo impostori. No, no, aspetta. Non riconoscere tua sorella. Non travisare anche con questo cuore. Saladino. Dai. Voi prendete e date, ma mi date molto di più di quello che mi credete. Infinitamente. Thank you.